è un tentativo di fare della didattica attraverso il cinema. Voglio dire che sto tentando di rappresentare con le immagini anche un mondo spirituale. All'inizio degli anni 70 ho cominciato a frequentare il misticismo indiano nei nomi di Yogananda, Aurobindo. A poco è aumentata questa fame di questo genere di influenze e quindi ho incontrato il sistema gurdjieffiano, Nisargadatta, il sufismo e tutto il buddismo e oggi sono qui. Lei ha definito questo film un po' così come metafora per adulti. Ci sono diversi livelli di lettura, però. Come ci Mi si può auguro. avvicinare a questo film? Se un individuo non è interessato all'esistenza, al mistero del vivere, è inutile che inizi neanche a guardarlo sto film. Devi avere una motivazione, se sei uno che si è posto dei problemi possiamo parlarne, ecco, se no guardati i film americani. Anche se come Giulio Varga si parte dall'affermazione che Dio non esiste. Certo, perché non potevo fare un film ossessivamente monotematico, no? Anche perché è giusto che all'interno di questa disquisizione poi ognuno tragga le sue conclusioni, ma sicuramente dal mio punto di vista l'ateo, pur finendo alla grande, finendo con un'azione zen che è sorprendente, nella prima parte non fa una grande figura rispetto agli altri, insomma, no? La fa perché è un grande attore, dice delle cose interessanti. Però le cose che toccano di più sono quelle dei credenti per me in questo film. Il cammino è lungo, arduo, pericoloso e difficile. Finisce questo cammino o bisogna andare avanti a percorrerlo Il mio sempre? Luista è che ho messo in una canzone dove c'è un incipit, secondo me straordinario, induista, che dice, si chiama Il cammino interminabile, che è una frase anche tremenda, proprio, come dire, non finisce mai. Però dice, se vuoi conoscere i tuoi pensieri di ieri, osserva il tuo corpo oggi. Se vuoi sapere come sarai domani, osserva i tuoi pensieri di oggi, che è meraviglioso. Questo nel piccolo l'ho potuto scoprire da me ultimamente, quando dopo aver smesso di fumare ho preso 10-12 kg, mi sembrava un'enormità vedermi con la pancia, dicevo, ma mi opero, sai quello. E quindi l'ossessione giornaliera di questi pensieri, dicevo, ma sei inguardabile, ma fai schifo proprio, no? Li ho persi tutti, non so come mai, ma li ho persi, capito? Curando anche un po' il cibo, è chiaro. Però ci sono riuscito, perché questi pensieri, ecco, oggi io vedo il corpo esattamente vedendo i miei pensieri di ieri, capisco che oggi l'ho avuto questo risultato. Io sono un po' colpita, dal suo pessimismo nei confronti del mondo. È realismo, però non è pessimismo. Cioè, ma vi pare possibile che uno entra in una casa di un altro dove c'è una povera vecchia di 80 anni e anche la bastona? Ma è una roba. Cioè, voi non vi rendete conto che accettiamo cose che sono incredibili? Come pessimismo? Sono un ottimista inguaribile. Cioè, degli esseri sono entrati a casa di una donna e le hanno messo il ferro da stiro caldo in faccia, ma non c'era nessun motivo. Altro che Arancia Meccanica, quella era la Madonna di Lourdes a confronto, capito?